Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che va in onda ogni mercoledì o quasi, poi più avanti vi spiegherò perché. E dalle 10.30 alle 12.25 musica dal vivo di ogni genere e di ogni epoca. E come al solito Città Fujiko Live Club inizia con una novità che oggi è appannaggio di un personaggio, di un cantautore si direbbe in Italia, songwriter si dice invece nei paesi anglofoni, e il cui nome è Samuel Sam Irving Beam, ma probabilmente lo conoscerete meglio con il suo nome di battaglia, che sarebbe Iron and Wine. Il buon Samuel, detto come dicevo Iron and Wine, è nato a Chapin in South Carolina, poi ha girovagato un po' qua e là per gli Stati Uniti e negli ultimi anni si è trasferito a Durham in North Carolina. È un personaggio che suona un po' di tutto, infatti lui alterna tour in solitario, in cui appunto suona praticamente tutti gli strumenti, tour con la band, una ottima band che ci ascolteremo nel corso della trasmissione. Quando non sa cosa fare, diciamo che prima di diventare un musicista a tempo pieno è stato anche professore di film e cinematografia all'Università di Miami, prima di iniziare la carriera che è iniziata nel 2002. Ha fatto parecchi album, ne ha fatti anche parecchi dal vivo, molti dei quali però sono solo in download, e se andate sul suo sito li potete trovare e scaricare a pagamento, chiaramente, e alcuni degli album in studio sono stati fatti in coppia con altri musicisti, uno fra tutti un ottimo album insieme a Calexico che fa assolutamente bene. L'album che ha pubblicato nel novembre scorso si chiama Who Can See Forever ed è praticamente il soundtrack, la colonna sonora di un film che tratta appunto di Bon Iver e della sua band, la preparazione dei concerti, i viaggi, le solite cose che ci si attende da un film musicale. Non l'ho visto, per cui non vi so dire esattamente com'è il film, ma ne ho letto parecchio bene. Il concerto nel film e anche nel CD che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato a Lone River Ballroom di un posto incredibile che si chiama Saxpawah, se ho detto bene, ma non ci credo. È un nome chiaramente indigeno, diciamo, chiaramente pelle rossa, sempre in North Carolina nel 2018, però non si sa bene esattamente quando, le date precise, si sa solo che furono due sere nel 2018 in cui suonò in questo Lone River Ballroom. Il pezzo che ho scelto per voi è un pezzo che si chiama Wolves, fra parentesi Songs of the Shepherd's Dog, cioè lupi, fra parentesi la canzone del cane pastore. In pratica lui si chiama Bon Iver, scusate, si chiama Iron and Wine, stavo già pensando a dopo. Questo era Iron and Wine, che confondo spesso con Bon Iver, ho sbagliato prima in sede di presentazione. È lui, Iron and Wine, il protagonista della prima parte della trasmissione, cioè per quel che riguarda la novità, e il brano che ci siamo ascoltati, Wolves, anzi plurale, Song of the Shepherd's Dog, è contenuta in questo album che si chiama Who Can See Forever, che come vi dicevo è la colonna sonora di un film che parla appunto di Iron and Wine e della sua band. Falling out of bed for the workday week, Questa canzone che parla di lupi mi ha fatto venire lo sghiribizzo, diciamo così, di ascoltarci oggi in questa prima parte della trasmissione dei brani che parlano di lupi. Non starò a disquisire ancora una volta il contenuto vero e proprio dei vari brani, perché sennò staremo qui fino a stasera, ma tutti i brani che ci ascolteremo in questa prima parte parlano di lupi, sia in senso animale che in senso umano, nel senso che sappiamo tutti che spesso un certo tipo di persone viene abbinato alla figura del lupo, ma è un discorso veramente molto lungo da fare. A noi invece interessa la musica e andiamo subito con una grandissima. Si chiama Patti Smith, spero vivamente che si sia ripresa dal malore che l'ha colpita proprio qui a Bologna e ci ha impedito di vederla qualche settimana fa. E qui ce l'andiamo ad ascoltare in un'antologia che si chiama Land e che contiene brani in studio, tutti già pubblicati, e alcuni brani dal vivo invece inediti. Fra questi brani ce n'è uno che è stato registrato a Parigi nel 2001 e che si chiama Boy Cried Wolf, il ragazzo urlò al lupo. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Gave thee life and bid thee feed by the storm and o'er the mead. Gave thee clothing of delight, soft as clothing, woolly, bright. Gave thee such a tender voice, making all the vales rejoice. Little lamb, who made thee? Dost thou know who made thee? Little lamb, I'll tell thee. Little lamb, I'll tell thee. He is called by thy name, for he calls himself a lamb. He is meek and he is mild. He became a little child, I a child, and thou a lamb. We are called by his name, little lamb. God bless thee, little lamb. God bless thee. Secret scriptures to the tabloids on the crucified, none above a whisper from the soul of gold to the belly of a boy. They drew him from the vice like they dropped blood, tied him to a tree like Saint Sebastian, and he turned his head, let the arrows fly through the trees, trees, ornamental leaves, and the the moon, but it won't answer. He fell on his knees as the bowl around, and the blood, blood, sacramental blood, and the boy cried, wolf, wolf, don't come, wolf within. Boy cried, wolf. Cause they drew me from the prize like they draw blood, died into as the rain comes down upon the sad sweet earth, I lie awake at nights and think about me. Others use your things, like what a fool I've been. I can't see a far way, but I'll let you slip away. To blame for playing a stupid game. I thought I'd it only call and you run. The fact that you never showed a honey, well, I shall learn that it seems I need you more each day. Heaven knows why that tender goes that way. That's far too late, and I've lost this time. So I sit alone and wonder, when did that go wrong? It always worked before. You kept the wolf from my door, but one day you never showed a honey. Now I'm not so sure that it seems I need you more each day. Never knows why that tittle goes out of way. That's far too late, and I've lost this time. Titolo quasi identico per quel che riguarda gli Style Council. Infatti, se il brano di Patti Smith che ci siamo ascoltati si chiama Boy Cried Wolf, questi Style Council ci hanno proposto invece The Boy Who Cried Wolf, che è praticamente la stessa cosa. Style Council, la band formata da Paul Weller dopo lo scioglimento dei Jam, insieme a Billy Talbot, tastierista che ha suonato anche con i Midnight Runners, i Dexys Midnight Runners, e con i Merton Parkers. Il tutto è durato una manciata di anni, dal 1983 al 1989, ma nel frattempo è stato partorito, diciamo così, questo album che si chiama In Concert, che è stato registrato in diverse locations, fra cui quella di Melbourne in Australia, esattamente all'Entertainment Center, il 18 agosto del 1985. Gli Style Council hanno interpretato questa The Boy Who Cried Wolf. To it. Ian Astbury è sempre stato molto attento, Ian Astbury, il cantante dei Cult, è sempre stato molto attento ai motivi ecologici, nonché a quelli dei nativi americani. Lui iniziò la propria carriera con una band che si chiamava Sound Death Cult, poi accorciato in Death Cult e accorciato ancora in Cult, il tutto dal 1983 con diverse interruzioni. La cosa che ci andiamo ad ascoltare è un po' particolare, perché un'antologia dei Cult che si chiama Pure Cult conteneva la prima parte di un album che si chiama Live at the Marquee, però poi inserita nella confezione c'era un coupon che ti dava la possibilità di comprare Live Cult Part 2, Live at the Marquee Part 2, così da avere un doppio CD live. A noi però interessa la prima parte, l'interesse, diciamo ancora, scusate il gioco di parola, ripetizione di Ian Astbury per tutto ciò che è natura viene esemplificato in questo titolo e in questo brano che si chiama Brother Wolf, Sister Moon, fratello lupo, sorella luna. Loro sono Cult, registrati nel novembre del 1991. This is a song we've never played live before. Something from the Love album. Don't tears away. hanno parlato di Uomini e Lupi, Metallica, Of Wolf and Man, il pezzo che ci siamo ascoltati e che è compreso in questo ottimo album, secondo me uno degli album fatti da un gruppo rock insieme all'orchestra, uno dei migliori di tutti i tempi. Si chiama S&M, che sta per Symphonic appunto e Metallica, ed è veramente secondo me molto molto coinvolgente. L'orchestra pompa come una matta, visto che è un'orchestra, ed è veramente l'interazione fra orchestra e gruppo rock è riuscitissima. Un album che mi piace molto si chiama S&M, è stato registrato al Community Theatre di Berkeley nell'aprile del 1999, ma poi è uscito anche S&M 2, che è stato registrato nel 2019 e pubblicato nel 2020. Grandi Metallica in questo caso, anche se spesso sono un po' tanti nello esagerati. Molto, sempre molto più pacati invece i Grateful Dead. Non vi starò a parlare di loro perché mi sembra che sia abbastanza siano abbastanza conosciuti, così come per i Metallica. E dirò solamente che l'album che ci andiamo ad ascoltare è un quadruplo che arriva dalla serie Dick Speaks, una serie che è iniziata da tantissimi anni fa, gestita da Dick Latvala, che Pix sceglieva appunto un concerto dei Grateful Dead da pubblicare. Dick Latvala poi è morto oramai diversi anni fa ed è stato sostituito da Dave Pix. La serie è continuata. Mi sembra che i Dix siano arrivati a 38, mentre oramai per quel che riguarda Davy siamo arrivati a 54 numeri. È assolutamente impossibile tenere dietro, come si dice a Bologna, alla discografia dei Grateful Dead, perché escono album live a rotta di collo, tutti tripli o quadrupli e tutti molto costosi. Comunque questo Dick Pix volume 14 è stato registrato alla Boston Music Hall il 30 novembre del 1973 e comprende questo lupo feroce, Dire Wolf. In the timbers of the area, the wolves are running round. Winter was so hard and cold, froze 10 feet beneath the ground. Don't murder me, I beg of you, don't murder me. Please don't murder me. I sat down to my supper, 'twas a bottle of red whiskey. My prayers went to bed, that's the last they saw. loves a soul that I have never been. She loves a dog among dogs and a man among men. And every day when I come home to her, she holds a phantom and she kisses and she hugs him, and I am not so averse to how she loves him. But why must I live and walk unloved as what I am? Why must I be loved as what I am? A wolf among wolves and not as a among men. Pink sock that she can go in, some warm and sweaty cave that I have never seen, not in my little life, and boy, not even in my dreams. Ecco un altro personaggio che può essere accostato come tipo, diciamo così, a Aaron Wine. Si chiama Bonnie Prince Billy, in realtà si chiama Joseph Will Holdham, ed è proviene da Louisville nel Kentucky. È stato in una band che si chiamava Pulse Brothers dal 1993 al 1997, poi ha iniziato una carriera solista nel 99 che l'ho portato fino ai giorni nostri. Summer in the Southwest, l'album che ci siamo ascoltati, è stato registrato in diverse parti degli Stati Uniti nel 2015 e contiene questa canzone che si chiama Wolf Among Wolves, appunto lupo tra i lupi. È una frase che noi umani abbiamo coniato e che usiamo, direi, abbastanza spesso. Bonnie Prince Billy. C'è stato un periodo in cui Mumford & Sons erano all'apice del mondo musicale globale. Loro arrivano da Londra e sono attivi tuttora dal 2007 e hanno dato via a un folk revival mondiale che è stato veramente impressionante, e pur essendo loro britannici hanno spopolato soprattutto negli Stati Uniti, hanno fatto diversi album live, questo è uno di quelli, si chiama Live from South America Dust and Thunder, dal vivo in Sudafrica, scusate ho detto America ma in realtà è Sudafrica, Polvere e Tuono. E nei primi album loro hanno sempre pubblicato, oltre all'edizione normale dell'album, una Gentleman of the Road Edition, che è quella che ci andiamo ad ascoltare, perché oltre al CD normale ci sono due DVD e un altro CD registrato dal vivo in Sudafrica proprio nel 2016. Il pezzo si chiama semplicemente The Wolf, il lupo, Mumford & Sons. Thank you so much, Pretoria. We're up for the set. Finale di concerto per Mumford & Sons con questo classico della loro produzione che si chiama semplicemente The Wolf e che ci avvia verso la conclusione di questa prima parte dedicata a brani che parlano di lupi e del rapporto fra lupi e uomini e del rapporto fra uomini e lupi. Andiamo avanti in questo senso, il tutto grazie ad Aaron & Wine e la sua Wolves che ci siamo ascoltati come primo pezzo e che è la novità che vi presento quest'oggi, di quale riparleremo subito dopo la pubblicità. A concludere questa prima parte rimangono fuori naturalmente tantissimi brani che parlano di lupi e rapporti fra uomo e lupo. A concludere questo invece arriva una grande band from Los Angeles che ha registrato proprio in casa, vale dire House of Blues a West Hollywood, Los Angeles, il 24 novembre del 2004, questo album che si chiama semplicemente Live in Los Angeles. Loro sono X, detto anche X all'italiana, e ci parlano di un Hungry Wolf, e che conclude appunto questa prima parte di Città Fujiko Live Club di oggi 24 gennaio 2024. Time on my knees and I the sea, the scent of roses and raspberry leaves, and there is smoke in my clothes. Too much time with just smoke in my nose. And I've been making the meaning they lack, and I've been darning the book they come back. By the sea, and an ocean between it and me, and like the shape of a wave, the jealous sisters will sing on my grave. At night, living to run where they live, and I've been dying to rise from their bed. Seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi mercoledì 24 gennaio 2024, seconda parte che è iniziata con la novità che vi presento quest'oggi, si chiama Iron and Wine, il titolare, detto anche Sam Irving Beam, però appunto in arte si fa chiamare Iron and Wine. Il suo album live si chiama Who Can See Forever ed è in realtà la colonna sonora di un film basato appunto su lui, sulla sua band, sulla vita on the road dei musicisti, ed è stato registrato al Hall River Ballroom di un posto incredibile dal nome. Si chiama Saxapahoe, circa, che è un posto nel North Carolina, tutto registrato nel 2018 ma pubblicato solamente nel novembre dello scorso anno. Il pezzo che ci siamo ascoltati si chiama House by the Sea, Iron and Wine. Come sempre nella seconda parte di Città Fujicore Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, e come dicevo anche nelle altre trasmissioni di gennaio è sempre un mese un po' povero, però si trova sempre qualcosa e si deve sempre scegliere fra i brani, e per cui il criterio di scelta è ancora una volta, come sempre del resto, quello di un brano per ogni decade. E iniziamo oggi la grandissima con una registrazione del 1975, l'ultimo atto l'ultimo atto di Peter Gabriel con i Genesis. Di loro che ci andremo ad ascoltare, sono stati formati, ma sicuramente lo saprete, nel 1967, e non solo io ma tutti praticamente dividono in due parti la vita dei Genesis, appunto quella con Phil Collins e quella con Peter Gabriel, e la seconda quella con Phil Collins, che avrebbe poi dato vita a quello che io personalmente chiamo il Phil Collins Group, perché con i Genesis originali ha poco a che vedere. La cosa che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un bellissimo cofanetto che si chiama Archive 1975, e sono quattro CD in uno splendido box con un bellissimo libretto, anche se poi le pagine si staccano, ma questo è un altro discorso. E i primi due dischetti presentano la versione completa di quello che all'epoca era il loro ultimo album, si chiama The Lamb Lies Down on Broadway, come dicevo l'ultimo atto fra Peter Gabriel con i Genesis, e pur non essendo la cosa più meglio, come non si dovrebbe dire, dei Genesis, è pur sempre una cosa assolutamente bellissima. Il terzo CD poi contiene delle altre registrazioni effettuate nel 73 al Rainbow di Londra, e la quarta invece roba di studio, outtakes, demo e cose varie. The Lamb Lies Down on Broadway, ci andiamo ad ascoltare un brano che si chiama In the Cage, e che è stato registrato allo Shrine Auditorium di Los Angeles appunto il 24 gennaio del 1975. Sunshine in my stomach, like I just rocked my baby to sleep. I got sunshine in my stomach, but I can't keep me from creeping sleep. In the deep. E così va a sfumare fino a far partire il brano seguente, perché The Lamb Lies Down on Broadway è una suite completa e i brani si sono attaccati praticamente l'uno all'altro. Per i pochi che non lo sapessero, appunto The Lamb Lies Down on Broadway racconta quello che viene chiamato un viaggio di formazione, di crescita di un personaggio che si chiama Ryle, e che praticamente tutto avviene nei sotterranei, nella underground di New York, dove incontra personaggi più disparati e che danno vita a pezzi belli e altri un po' meno, ad essere sinceri. Questo era In the Cage, uno dei classici tratti da questo da questa opera, che come vi dicevo è l'ultima cosa che ha fatto Peter Gabriel insieme ai Genesis, e praticamente ha scritto tutto lui, tutto questa bellissima suite. Il brano è stato registrato allo Shrine Auditorium di Los Angeles il 24 gennaio del 1975. E ci sono dei gruppi che definire sfortunati è veramente riduttivo, nel senso che bands come quella che ci andavamo ad ascoltare, che si chiamava Sound, aveva tutte le caratteristiche per assurgere alla notorietà, più di quelle che hanno avuto soprattutto in Gran Bretagna e soprattutto in Olanda, ma di questo parlerò fra un po'. Il tutto era capitanato da un chitarrista cantante che si chiamava Adrian Borland. Loro arrivavano era un quartetto che arrivava da South London e che appunto fu attivo dal 1979 al 1988, anno in cui Adrian Borland non ne poté più e si buttò sotto un treno delle metropolitane. Peccato veramente, perché avevano dei pezzi ottimi come quello che ci andavano ad ascoltare. Come vi dicevo, erano molto famosi in Olanda, tanto che è uscita una serie che si chiama The Dutch Radio Recordings, che comprende 5 registrazioni, 5 concerti registrati appunto dalla radiotelevisione di Stato olandese, e sono 5 numeri, uno secondo me più bello dell'altro. Quello che ci andiamo ad ascoltare è esattamente il numero 3 ed è stato registrato ad Arnhem, una delle città principali della nazione olandese, in un locale che si chiama Stokvishal o qualcosa del genere. Il mio olandese, come potete tranquillamente arguire, è pessimo. Il tutto è stato registrato il 24 di gennaio del 1983 e questo è uno dei loro grandi classici, si chiama Winning. Loro si chiamavano Sound. it all for coming. Thanks a lot. E questi erano Sound, registrati live in Olanda, come tratto dal numero 3 di questa serie di 5 concerti pubblicati, concerti che furono registrati appunto dalla TV olandese. Si chiama Winning, uno dei loro classici, e molto velocemente passiamo invece ai Dr. Feelgood, altra band che non ha avuto il successo che meritava, ma che sicuramente è stata una grande band fino alla morte di Libri Lowe, il cantante armonicista, che è morto nel 94. Dopo la band ha proseguito, ma senza membri originali, per cui è tutta un'altra cosa. Down at the Doctors è l'album che ci andiamo ad ascoltare, registrato in un locale dedicato proprio a loro. Si chiama Dr. Feelgood Music Bar ed è a Conway Island, che è nell'Essex, che è la loro città natale. Il brano che ho scelto per voi è proprio quello, si chiama Down at the Doctors, loro sono Dr. Feelgood. Okay, well, it wouldn't be a feel-good gig without leaving you this last two, so let's kick off here. Milk and alcohol! Why, boy? so dirty. Is my grandson, Mr. Cedric Burnside. Mr. Kenny Brown. Yeah. Personaggio incredibile questo chitarrista cantante che risponde al nome di Earl Burnside, anzi purtroppo rispondeva a questo nome perché è morto qualche anno fa. E, personaggio incredibile perché lui è diventato famoso, fra virgolette, in età abbastanza avanzata. Infatti lui arriva dal Mississippi, ma negli anni 40, come molti altri musicisti di colore e non, emigrarono al nord, a Chicago, però dopo qualche anno tornò al sud perché non era il suo genere preferito, nel senso di abitazione, di modo di vivere a Chicago. Per molta parte della sua vita è stato un musicista part-time che ha suonato solamente nei weekend e alla sera, poi di giorno faceva un lavoro che non so esattamente quale. Poi, una volta che è andato in pensione, è diventato musicista a tempo pieno, cioè ha fatto praticamente il contrario di quello che di solito fanno i musicisti che se lo possono permettere. Nel 1995 diventò appunto famoso, sempre fra virgolette, grazie a un tour che fece insieme alla John Spencer Blues Explosion e che lo portò alla ribalta, e che lo portò a quel poco di successo che ha avuto nella vita fino alla morte. Lui ha avuto un sacco di figli e figlie, molte, anzi quasi tutti, oserei dire tutti, suonano qualche strumento. Infatti in molte occasioni si fa accompagnare dal figlio Cedric alla batteria. Cedric è un batterista chitarrista che abbiamo visto suonare anche con i Mississippi All Stars e che insieme ai fratelli suona spesso e volentieri per gli amici, con gli amici. E come dicevo, Burnside è morto purtroppo nel settembre del 2005 all'età di 75 anni, e prima però ci ha lasciato questo ottimo album che si chiama Burnside on Burnside. È un gioco di parole perché il locale in cui è stato registrato, che è il Crystal Ballroom di Portland, è su Burnside Street, quindi R.L. Burnside ha suonato on Burnside Street, da cui il titolo di questo brano. Il pezzo che ci siamo ascoltati, che è quello che concludeva questo concerto del 24 gennaio 2001, si chiama Snake Drive. A proposito, credo di aver dimenticato in precedenza di dirvi che il brano dei Dr. Phil, come tutto l'album Down on the Doctors, è stato registrato il 24 gennaio del 1994. A concludere Ricordi Today di oggi arriva una band che si chiamava British Sea Power. Questa band ha attribuito questo album che si chiama Sea of Brass Live, però nel 2001 hanno abbreviato il loro nome in Sea Power solamente, perché il British era un po' troppo nazionalista, dava sensazioni strane, diciamo così, ai musicisti. La band si è formata a Reading, Gran Bretagna naturalmente, nel 1995, ed è guidata dai fratelli John e Neil Hamilton, anzi John e Neil Wilkinson, il secondo nome è Hamilton, uno suona la chitarra e canta e l'altro suona basso, canta, chitarra e tastiere. Hanno fatto parecchi album e hanno un buon successo nella loro nazione, in Gran Bretagna naturalmente. Alcuni anni fa fecero un album che si chiamava Sea of Brass, che racchiudeva delle registrazioni fatte insieme a delle brass band che loro avevano incontrato nel corso di un tour. Quello però era un album in studio, e hanno deciso anche di fare una versione live appunto di Sea of Brass, questa volta al Barbican Center di Londra il 24 gennaio del 2015 insieme alla Redbridge Brass Band. Ci andiamo ad ascoltare come inizia quel concerto. Inizia abbastanza lentamente, si chiama Heavenly Waters il primo pezzo, loro invece si chiamavano ancora British Sea Power. We'll be right back. Pomposo intro strumentale, questa Evelyn Waters da parte di British Sea Power, si chiama Sea of Breath Live, l'album, come vi dicevo, registrato al Barbican Center di Londra il 24 gennaio 2015, a concludere questa Record Today di oggi. A concludere la trasmissione molto velocemente arriva la novità che vi ho proposto quest'oggi, vale a dire Aaron and Wine con il suo Who Can See Forever, la colonna sonora dell'omonimo film. Vi ringrazio naturalmente per l'ascolto, vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club eccetera eccetera eccetera. L'appuntamento è per mercoledì prossimo alle 10.30, stessa modalità d'uso, stesso orario. Lasciamo appunto la compagnia insieme ad Aaron Wine con un brano che si chiama Naked As We Come, nudi come siamo arrivati, lui appunto Aaron Wine. Ciao a tutti da Nevio. She says wake up, it's no use pretending, I'll keep stealing, breathing her. Birds are leaving over autumn's ending, one of us will die inside these arms, eyes wide open. Sleeping children, one of us will die.